Siamo con Marco Bertuzzi, presidente di Acer, in occasione della conferenza di presentazione di un patto che è stato firmato tra Acer e Insieme per il Lavoro, allo scopo di trovare lavoro per chi abita nelle case popolari, perché come sappiamo il mantenimento della casa e il lavoro sono due entità strettamente connesse. Assolutamente sì, casa e lavoro, e io aggiungo anche sanità, visto che appunto arriviamo da un periodo pandemico, sono i tre pilastri su cui impostare la ripartenza. Diamo con questo patto firmato oggi l'opportunità ai nostri assegnatari di mettersi in contatto direttamente con Insieme per il Lavoro. È un'associazione promossa dall'arcivescovo e dal sindaco di Bologna metropolitano per promuovere il lavoro. Diamo l'opportunità ai nostri utenti di poter avere anche un contatto diretto con Insieme per il Lavoro, perché molto spesso ci è capitato che nelle nostre chiamate, che spesso sono appunto manutentive, ci sia stata manifestata anche la volontà e la voglia di trovare un lavoro. Con questo patto mettiamo a disposizione, formando il nostro personale di Acer, mettiamo a disposizione dei nostri utenti questa opportunità. Infatti, quindi, come avete accennato in conferenza, ci sarà il personale URP che sarà formato all'uopo. Esatto, assolutamente così, formeremo il nostro personale, ma faremo anche di più, e nella collaborazione con Insieme per il Lavoro faremo in modo e maniera che nei luoghi di prossimità dove stiamo andando, quindi dove, nei comparti dove c'è appunto maggiore insistenza di edilizia residenziale pubblica, ci siano i nostri operatori di Acer formati con queste opportunità promosse da Insieme per il Lavoro, ma anche gli operatori stessi di Insieme per il Lavoro che verranno con noi per insieme fornire quelle che sono le opportunità migliori per i nostri utenti che stanno cercando un lavoro. Ecco, e se ho ben capito, gli stessi assegnatari delle case popolari riceveranno direttamente in bolletta questa segnalazione. Perfetto, sì, facciamo anche un'attività di comunicazione ad hoc, mandando appunto in bolletta i contatti e i riferimenti di Insieme per il Lavoro per fornire appunto questa opportunità a tutti i nostri assegnatari. Diciamo che i potenziali assegnatari su tutta la città metropolitana di Bologna che vivono nei nostri alloggi sono 38.000 persone, e quindi ovviamente non tutte hanno bisogno di lavorare, però per quelle che fra queste 38.000 avranno bisogno di lavorare, ci sarà da oggi anche questa opportunità in più. Anche perché, come lei diceva in conferenza, ci sono dei settori che risentono gravemente della mancanza di manodopera. È assolutamente così, e uno fra tutti, glielo dico subito perché ci abbiamo a che fare purtroppo tutti i giorni, è il settore dell'edilizia. In questo momento non c'è manodopera e, aggiungo, non c'è manodopera qualificata, per cui molti si stanno improvvisando cappottisti e finestrai, e purtroppo non sono né cappottisti né finestrai. Quindi c'è un bisogno di formazione specializzata, c'è un bisogno di manodopera qualificata, perché non ci si può improvvisare visto che appunto si va a intervenire sugli edifici. Quindi crediamo che la strada a tendere sia quella giusta.